Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Negli Stati Uniti gli obesi pagano il doppio per viaggiare in aereo. In Giappone il governo fissa un limite per il girovita, mentre in Inghilterra un ospedale si rifiuta di far partorire le donne che hanno qualche chilo di troppo. E anche in Italia la vita per il sovrappeso diventa sempre più difficile. E dagli addosso agli obesi. Come se non bastasse doversi portare in giro tutto il giorno e tutti i giorni quei chili di troppo che ti fanno sentire diverso. Quasi che a nessuno venga in mente che se l'ago della bilancia ha sforato di un bel po' la linea accettabile, non è sempre e non solo perché ci si rimpinza di cibo e schifezze varie, ma perché la genetica ci ha fatto un brutto scherzo, o i nostri ormoni non funzionano come dovrebbero. O perché, accidenti, il nostro corpo assimila all'ennesima potenza tutto quello che mettiamo in bocca, fosse anche, esageriamo, solo un filo d'erba. Ma torniamo al dagli addosso agli obesi. Succede, ed è solo l'ultima di una serie di discriminazioni, che un ospedale inglese, il Weston General Hospital, abbia deciso di rifiutare le donne sovrappeso che vogliono partorire. Ne fa una questione di indice di massa corporea. Il limite è un BMI di 34, un po' come dire 95 kg di peso per 1,60 m d'altezza. Se la futura mamma ha messo su più chili, niente da fare, in quell'ospedale non può partorire. Anche il Giappone, dove l'obesità non è certo un problema come negli Stati Uniti, è corso ai ripari. Da quando ha capito che l'obesità può sfociare nella sindrome metabolica, aumento dei trigliceridi nel sangue, ipertensione arteriosa, troppi centimetri al girovita, ridotta tolleranza agli zuccheri, diminuzione del colesterolo buono, con conseguente aumento del rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e di alcuni tumori, ha pensato bene di ridurre il limite fissato dal governo per il girovita. Quello dei maschi non deve superare gli 85,09 centimetri. Un modo per contenere il diffondersi di malattie e contenere quindi i costi sanitari. Ma a dare addosso ai ciccioni avevano già pensato alcune compagnie aeree, sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna, ma anche in Francia e in Canada, chiedendo il pagamento doppio del biglietto se il passeggero oversize occupava due poltrone invece di una. Anche se proprio in Canada una sentenza della Corte Suprema l'anno scorso ha stabilito che i viaggiatori con tanti chili di troppo devono pagare un unico biglietto anche quando occupano due poltrone. Meno male che viviamo in Italia, verrebbe da dire, ma è poi così vero? Fino a un certo punto. Intanto ricordiamo un po' di dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità il 10 ottobre scorso. Le persone obese in Italia sono il 17% degli uomini e il 21% delle donne. I più ciccioni vivono in Basilicata, 34% uomini e 42% donne. A seguire ci sono siciliani, 31% uomini e donne, e calabresi, 24% uomini e 38% donne, mentre i più in forma sono i piemontesi, 12% uomini e 13% donne. Grave la situazione anche nei bambini. Sono i più grassi d'Europa, con uno su tre di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che pesa troppo. I dati ci servono per ricordarci che il problema obesità esiste anche da noi. E quello della discriminazione? Esiste nelle piccole cose, ci sono difficoltà nei viaggi sui mezzi pubblici e nei colloqui di lavoro, ci spiega Alessandro Saibene, dietologo presso l'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Mi è capitato di avere pazienti che si sono sentiti dire «Sa, si tratta di un lavoro a contatto col pubblico, la presenza ha la sua importanza». Perché nel nostro paese forse non capita di pagare due volte un posto sull'aereo, ma capita di sentirsi discriminati nei rapporti interpersonali e lavorativi. L'apparenza conta molto e i chili di troppo stonano. Anche se magari quei chili sono il frutto di una condizione sociale tutt'altro che rosea, nella quale mangiare un panino costa meno di un pranzo come si deve. Ci stiamo sempre più avvicinando al modello Stati Uniti, mangiare rapido, fast food e poca attività fisica. Il problema è in crescita, anche nei bambini e nei giovani, con una certa rilevanza nei ceti meno abbienti. Far fare sport ai propri figli ha un costo. Detto questo, resta il fatto che l'obesità è una malattia molto complessa, le cui cause non sono state ancora del tutto scoperte. Una malattia che peraltro ha costi sociali e sul lavoro piuttosto elevati, conclude Saibene. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Mori, Dagli al ciccione. da Libero del 15 novembre. Un recente studio del CERN evidenzia come in Campania un terzo delle spese sanitarie vada sprecato. Se la sanità italiana fosse tutta quanta idealmente efficiente, risparmieremmo 11,3 miliardi di euro l'anno. Basterebbero per avere una scuola più decente, dare un servizio coi fiocchi ai pendolari dell'EFS e una mano vera alle famiglie bisognose. E ne avanzerebbero per una sforbiciata all'IRAP. Invece, sprechiamo e basta. Ancora più grave è che il 27% di questa enorme somma, cioè 3 miliardi e 90 milioni di euro, si potrebbe recuperare dalla sola Campania. Secondo uno studio del CERM, il centro studi guidato dal professor Fabio Pammolli, è la regione in assoluto più lontana dalle frontiere ideali dell'efficienza sanitaria, che a occhio e croce passa dalle parti del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia. Il calcolo è piuttosto complicato, ma i numeri di quel rapporto sono sconvolgenti. Nei 10 anni dal 1997 al 2006, la Campania ha speso per la sanità una somma pro capite inferiore del 2,25% alla media nazionale. Ma quei 1.215 euro sborsati per ogni campano sono risultati decisamente troppi rispetto a qualunque standard di efficienza accettabile. In base alla famosa standardizzazione della spesa, che dovrà essere il faro del federalismo fiscale, e alla qualità offerta, la Campania dovrebbe correggere al ribasso questa spesa pro capite di ben il 31,9%. Banalizzando, gli ospedali e le altre strutture sanitarie avrebbero potuto offrire lo stesso servizio spendendo 388 euro di meno per ogni residente della regione. Come se un euro su tre investito nella sanità in Campania venisse gettato dalla finestra. E questo è francamente inaccettabile. Attendiamo i risultati della strategia avviata dal governatore Raffaele Lombardo, ma dallo studio del CERM nemmeno la Sicilia esce particolarmente bene. Il divario di efficienza è del 24,7%. Si spreca cioè un euro su quattro, senza che naturalmente i siciliani siano più sani degli altri italiani. Eppure in Sicilia se ne va misteriosamente per le medicine, come dimostra una recente relazione della Corte dei Conti, una somma superiore del 37% a quella spesa dal Veneto, regione del Nord, con una popolazione assolutamente paragonabile a quella siciliana, 4,8 milioni contro 5. Andiamo avanti. Dice il CERM che subito dopo la Sicilia c'è la Puglia, seguita dal Lazio. E qui si può tracciare una linea, perché se in queste quattro regioni l'efficienza dei servizi sanitari venisse portata a un livello ottimale, il risparmio sarebbe di quasi 9 miliardi. Con l'unica eccezione della Liguria e del Trentino Alto Adige, dove la spesa elevata corrisponde comunque a una buona qualità. Le regioni ben al di là della frontiera dell'efficienza sono tutte meridionali. E il rapporto del centro studio di Pammolli non può fare a meno di sottolineare come, fra le prime 8 regioni di questa poco invidiabile graduatoria, ben 6 siano interessate dal piano di rientro della spesa sanitaria. Quali risultati concreti daranno quei piani è tutto da vedere. Di certo, per il ministro del welfare Maurizio Sacconi, in Campania e in Sicilia è arrivato il momento della responsabilità. A Capri, Giulio Tremonti ha poi detto di considerare il Sud una questione nazionale. Il loro collega Renato Brunetta invece ha appena dato alle stampe un libro, Sud, un sogno possibile, nel quale prefigura una seconda spedizione dei 1000 per sconfiggere il male oscuro del mezzogiorno. La realtà è che da troppi anni la spesa sanitaria in certe regioni è fuori controllo, mentre la qualità dei servizi è spesso da terzo mondo, se non addirittura peggio. Lo Stato fa sempre la voce grossa, poi mette sempre mano al portafoglio per tappare le voragini, e la banda del buco la passa regolarmente liscia. Alla faccia delle camicie rosse. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, Sanità, la Campania spreca un euro su tre, dal Corriere della Sera del 4 novembre. Letture di Radio 24. Negli obitori italiani ci sono 770 cadaveri senza identità che nessuno ha mai cercato. Il caso più vecchio è quello di una donna trovata morta nel 1974. All'ingresso del cimitero c'è una scritta in latino: «Beati i morti che sono morti nel Signore». Forse moriamo tutti nel nome del Signore, ma a Lauriano, sulle rive del Po, fra le croci e il silenzio venuto dal cielo, ci sono due lapidi senza nome. Una di fronte all'altra. Quella più vecchia ha inciso solo una data, 15 aprile 1974, il giorno che la seppellirono. L'avevano trovata l'11 aprile e il brigadiere Raffaele Posca della stazione dei carabinieri di Casal Borgone aveva scritto nel rapporto che era una salma di sesso femminile dell'apparente età di 40-50 anni, giaceva in un groviglio di arbusti ammucchiati dalle acque del fiume, supina, completamente nuda, con all'altezza della vita un elastico, presumibilmente da reggicalze. Tutto quel che resta di questa donna senza nome è questo ritratto. Capo infangato, cavità orbitali vuote, addome teso annerito, piedi scheletriti, erosioni a cosce e polpacci da topi e roditori di bosco. I cadaveri senza nome sono i più tristi, perché sono morti senza la parola fine. Molte volte sono anche i più brutti. Ce ne sono 770 in Italia, abbandonati al loro dolore e alla loro crudele solitudine, vittime della burocrazia, di una ingiustizia senza pietà, nemmeno per i morti. La morte, in fondo, appartiene alla vita, e l'identità è una delle cose più importanti della vita. Solo un anno fa i cadaveri senza nome erano 337. In 12 mesi sono più che raddoppiati. 114 di loro sono immigrati annegati in un barcone affondato nel mare. La maggior parte si trova nel Lazio, 188. Poi seguono la Lombardia, 130, la Sicilia, 110, la Puglia, 52, il Veneto, 45 e la Campania, 42. A Milano quest'anno sono 88 i corpi senza nome. Tecnicamente, il concetto di identità si può definire come quei caratteri individuali che differenziano inconfondibilmente un determinato individuo da un altro. Ma l'identità di una persona non è solo questo. Dentro c'è la vita, ci sono gli affetti, i sentimenti, le emozioni, anche le ingiustizie, tutto quello che troviamo sulla nostra stessa strada. Privare questo viaggio della parola fine è un po' come negare che la persona sia mai esistita. Per questo la maggior parte dei cadaveri senza nome erano persone vissute ai margini della società, clochard e immigrati, molte prostitute e diseredati di tutti i tipi. Degli 88 casi di Milano, la metà è oggetto di indagini come morti sospette, il 20% come omicidi certi, e in ogni caso l'identificazione dei resti non è come nelle fiction televisive. È molto più difficile, e a volte si hanno così pochi frammenti di un corpo che è quasi impossibile risalire al DNA. Così, per il suo lavoro, Cristina Cattaneo, dirigente dell'Abanoff, il laboratorio di antropologia e odontologia dell'Università Statale di Milano, ha messo su un team di esperti in odontologia, ma anche in archeologia, per studiare la conformazione di un terreno e capire dove fare gli scavi, o in botanica, con l'utilizzo persino di una muta di cani addestrati. In molti casi tutto questo non serve, anche se nel suo orrore può succedere di sfilare le ossa ancora sporche di materiale residuo in una poltiglia di tessuti molli maleodoranti. Questo lavoro così tragico e minuzioso riserva in fondo l'ultimo vero gesto di pietà per queste vittime. Qualche volta invece si arriva all'identità e all'ultima parola, come quando un vecchio marocchino ha finalmente potuto vedere i resti del figlio stringendo e baciando il suo cranio in lacrime, senza paura e senza vergogna. Può succedere, come 4 anni fa a Milano, che il cadavere di un uomo ammazzato venga messo in un boiling unit, che in pratica deve bollirlo, perché solo così si riesce a ripulire lo scheletro per fare gli esami opportuni. Però così ce l'hanno fatta. Un'altra volta un extracomunitario carbonizzato è stato identificato grazie a 2 bulgari che sono rimasti per giorni e notti intere davanti al laboratorio, chiusi in una macchina, sempre lì, qualsiasi ora andasse via, fino a quando non hanno avuto il DNA della moglie. Sono casi isolati, comunque. Il problema è che manca un giusto coordinamento, come sostiene Elisa Pozzatasca, presidente di Penelope, l'associazione che raccoglie centinaia di uomini e donne in ansia per i loro cari svaniti nel nulla e che lavora su questa tragedia come il nuovo commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Michele Penta. Secondo la banca dati del Ministero dell'Interno, gli scomparsi in Italia sono 24.800. Fra loro è ovvio che ci sono anche alcuni di quei cadaveri senza nome. Da una parte la gente non sa come fare e dall'altra non c'è collegamento fra chi riceve la domanda, il Ministero dell'Interno, il commissario straordinario che deve essere coinvolto in queste vicende e la famiglia. L'esempio lo racconta lei. È quello di Banchisio Inzaina, un anziano residente a Vinci, morto il 19 gennaio 2001. È caduto nell'Arno e la corrente ha trascinato il suo corpo a Pisa. Ma nessuno lo sa. Sta chiuso in una cella frigorifera per 8 anni. Le figlie Angela e Rita lo cercano disperatamente. Nel 2007 dalla Puglia arriva una segnalazione. C'è un morto con una cicatrice nella testa come quella che aveva Banchisio. Le figlie danno il DNA. Non è lui. Però ci sono 8 scomparsi in Toscana e finalmente confrontano i DNA e lo trovano. Ancora 2 anni dopo, perché tanto ci vuole per mettere la parola fine a una vita che non c'è più. Invece quella di Lauriano, quella parola non l'ha mai avuta. Dovrebbe essere il cadavere ignoto più vecchio. Avevano detto di lei che era una prostituta. Non era vero. È che si può dire di tutto di un morto senza nome. Il cantoniere che portò il suo corpo alla camera mortuaria ricorda solo che faceva un caldo bestiale quel giorno, il 15 aprile del 1974. Oggi è questo il suo nome. Il tempo può essere più vicino al Signore di quanto lo siamo noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierangelo Sapegno, L'esercito dei morti dimenticati, dalla Stampa del 14 novembre.